liberami da questa prigionia. Fammi andar via, risparmiami un'altra litania. Non serve a niente dire che mi ami, ma tanto chi ci sente, se per noi si parleranno d'ora in poi i legami. Un minuto di raccoglimento, oggi si è spento un sogno. Fino a cento e torni a vivere, perché hai bisogno, e se andrai lontano fa che non sia troppo fuori mano, trova un posto irraggiungibile e calerà la fine in questo cine. Senza schermo io e te, come in un fermo immagine. Attori e spettatori, chiama la polizia che ho appena fatto fuori la tua bella allegria per risparmiarle ancora dei dolori. Non la potevo più soffrire, non dovrà soffrire più. Chiamammo alla follia, poi siamo rinsaviti per quella malattia di noi guariti da quel fottuto medico. darmi.